sale ingiallito d'autunno, tristemente mai detto è finito l'amore più vero, il più puro, il più splendido amore. Ma una lacrima bagna il tuo viso, quella lacrima dice al mio cuore: non potrò lasciarti più. Ci lasceremo mai, lo sai, lo sai. L'amor che ti giurai vive ancora di più. Tutta una vita di dolcezze, di tenerezze non può svanire. I baci, le carezze, le dolci ebbrezze non sa mentire. Lasciam parlare il cuore che vive in ansietà, che trema di timor, che vuole questo amore. Oh, ne morrà, non potrò lasciarti più. Gioia ed il dolore sei tu. Non potrò lasciarti più. Ci sei soltanto.